Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci qui, puntata strana, puntata diversa. Oggi parleremo a ruota libera con il prode Antonio Dini di videogame, per cui diamo libero sfogo a una passione che ci accomuna, anche se ci distingue. Ci accomuna e ci distingue. Perché il videogame accomuna e distingue. Perché il videogame accomuna e distingue. Parole sante, parole sacrosante. Prima le news e prima cominciamo a parlare di videogame. Le news. Microsoft svela Kinect, un sistema di gioco per la piattaforma Xbox. Non richiede joystick o altri dispositivi di controllo che implicano l'uso delle mani. Kinect, invece, punta sul movimento del corpo e sui suoni. È in grado di rilevarli attraverso microfoni e raggi infrarossi. Gli utenti possono interagire con i giochi senza toccare nulla. Microsoft sperimenta il progetto da un anno. Ha lanciato Kinect all'E3 Show di Los Angeles, il principale appuntamento per gli appassionati di videogame. Apple sotto indagine negli Stati Uniti. L'agenzia di informazione Bloomberg conferma che l'antitrust o il Ministero della Giustizia apriranno un'inchiesta. Sono nel mirino possibili comportamenti anticompetitivi nel mercato della pubblicità per dispositivi mobili. La scorsa settimana l'azienda fondata da Steve Jobs ha escluso dall'accesso ad alcuni dati della sua piattaforma una società di marketing, AdMob, acquistata di recente da Google. Secondo il quotidiano Guardian, inoltre, la Apple ha deciso restrizioni anche per Microsoft e Nokia. Passiamo alle scienze. La sonda giapponese Hayabusa è atterrata nell'Australia meridionale. È ritornata dopo un lungo viaggio nella galassia, 5 miliardi di chilometri in 7 anni. Ha raccolto campioni dell'asteroide Itokawa. Secondo gli scienziati, i reperti aiuteranno la comprensione del sistema solare e della formazione dei pianeti. Consentiranno inoltre di valutare il rischio di collisioni future con la Terra. Allora, prima festeggiamo una cosa, cioè festeggiamo il fatto che io sono uscito da Farmville. Ho smesso, mi sono disintossicato, quindi è possibile uscire da Farmville, che significa che ho lasciato una scritta. Farmville, poi spieghiamo subito cos'è. È un contadino virtuale? È un modo per ritornare con le braccia all'agricoltura, ma in modo digitale. È un contenuto all'interno di Facebook, quindi sì. È un gioco che si trova dentro Facebook. È un gioco gratuito, non costa niente apparentemente, dà però subito dipendenza. E se vuoi migliorare in maniera più rapida, puoi comprare delle aggiunte, delle cose in più, la vanga nuova. La vanga, io ci avevo la... A parte avevo grandi possedimenti terrieri, poi avevo un campo di peperoni, avevo l'elefante, cosa che è abbastanza rara. Avevo la mongolfiera costosissima, l'albergo e la grande villa. La villa ci vogliono un milione di soldi virtuali e li ho spedi tutti. Tu sei sicuro di aver smesso, vero? Ho smesso e ho lasciato una scritta. Cioè io me ne sono andato da quel mondo con una scritta «La terra ai contadini». Cioè una frase forte, una frase vera, una frase da compagno, e ho lasciato questa mia testimonianza al mondo, cioè che la terra torni ai contadini, io che ero proprietario terriero ho fatto un passo indietro e ho guadagnato tempo e salute. Speriamo che un giorno tutto questo si ritorca contro di te, però comunque Farmville è un gioco che ha portato all'attenzione pubblica un filone assolutamente nuovo, quello di questi social game persi dentro i social network. Detto semplicemente, il giocatore casuale che va su internet utilizzando il browser ed entra dentro Facebook, a un certo punto si stanca di scrivere commenti e controcommenti e condividere foto e ha trovato il giochino, e allora ha trovato un modo in più per abitare dentro Facebook 24-25 ore al giorno praticamente. Questa è l'ultima incarnazione, l'ultima tendenza miliardaria, perché sta diventando miliardaria, di un mercato, quello dei videogame, che è una cosa che si dice sempre, però ribadiamolo una volta di più. Il mercato dei videogame vale economicamente più della somma del cinema e della musica. Oh, insomma, per cui basta, fratelli piccolini, minori, stupidi, giocherelloni, non è un gioco per bambini, non è cosa per piccolissimi, ha dei numeri da grande industria, è produttore di contenuti, è produttore di storia e, insomma, io e Dini siamo la prova, la testimonianza vera, insomma, riguarda anche il mondo non adultissimo, ma adulto, noi siamo adulti. Insomma. Assolutamente sì, anche perché c'è un fatto generazionale, i videogiochi nascono negli anni 70, quando più o meno la generazione di quelli come te, quarantenni più o meno, li incocciano da bambini. Fondamentalmente, l'Atari 2600. Fondamentalmente abbiamo incocciato da bambini, perché anch'io ho la tua età, i videogiochi e i cartoni animati giapponesi. Ora, a parte i cartoni animati giapponesi, i videogiochi ce li siamo portati più o meno dietro tutta la vita. Chi viene dopo di noi, cioè chi è più giovane, li ha trovati già molto più maturi, molto più strutturati. E quindi siamo alla seconda, quasi terza generazione di consumatori di videogiochi, con un'aggiunta da fare, perché il videogioco negli ultimi 3-4 anni è diventato pop, nel senso che si è aperto al mercato degli giocatori casuali, quelli, esatto, che tu hai definito prima giocatori casuali, che è la traduzione di casual game, no? Che poi, se uno ci pensa, il giocatore casuale sembra uno che gioca a casa, invece no, cioè chi è il giocatore casuale? È quello che non ha gli occhiali spessi, esatto, e non passa le sue serate davanti al PC a giocare in rete, ma bensì è una persona normalissima che torna a casa, accende la Wii, per dirne una, la console attaccata al televisore, o magari quando... Chi ha inventato questa categoria? Poi diciamo, è mio papà il giocatore casuale, papà è... o una ragazza che non è nerd, che insomma è sana e matura, che per cui non si appassiona a questo, guarda, mondo. Ti dico la differenza: se tu fai una cena e lo scopo è giocare dopo ai videogiochi, se sei un giocatore solido, hard, inviti 4 amici come te e poi ci si mette con la PlayStation a smazzolarsi, a chissà che cosa, le corse con la macchina, si picchia come dei fabbri qualcuno, sì, esatto. Se invece sei un casual gamer, organizzi una cena con coppie di amici e le ragazze alla fine sono quelle che si divertono di più a giocare a bowling o a tennis virtuale, mimando davanti allo schermo. Ma l'hai messa noiosa, così è un po' noiosa, no? Vabbè. No, però è anche, diciamo, sono giochi con una bassa anche livello di ingresso, per cui insomma la Wii, che ha inventato questa categoria dove tu smanacci, giochi a tennis muovendo le braccia, è tutto molto intuitivo, è tutto molto facile. Qualcuno dice che è tutto molto noioso anche dopo un po', questa è la critica che è stata mossa alla Nintendo. Qualcuno dice la Wii non è una console ma è un giocattolo, è possibile anche questo. Detto questo, è un giocattolo che ha fatto un sacco di soldi, ma tutte le console sono dei giocattoli, poi sì, se vogliamo, non ci dimentichiamo che giocare e giocattolo vanno, sì, insieme. Sì, sì, però nel senso, cioè, no, poi ricordiamo due cose, cioè nel senso che la Wii ha fatto un sacco di soldi, sì, ha fatto un sacco di soldi, adesso sta a dei numeri un po' diversi, ma comunque resta sicuramente il grande fenomeno che ha cambiato tutto il mercato dei videogame. Un tempo videogioco era sinonimo di PlayStation, oggi con la Wii, insomma, è tutto diverso. Ed ha costretto l'evoluzione, ecco perché ne stiamo parlando, perché sono due le evoluzioni fondamentali. La prima, che come la Wii anche Microsoft con l'Xbox, PlayStation di Sony hanno iniziato a inventarsi delle cose nuove. Tutte e due abbiamo visto, Luca, questa novità che arriverà fra alcuni mesi del progetto Natal di Microsoft, che rende l'Xbox veramente uno strumento che ti guarda e tu sei il joystick, tu ti muovi e lei capisce cosa stai facendo. E non c'è solo questo, c'è anche la conquista da parte dei videogiochi, dei social network e soprattutto degli apparecchi in mobilità, perché la grande differenza in questo momento è che il videogioco entra nel social network ed entra nel telefonino, e quindi fondamentalmente ce l'hai sempre in tasca e puoi giocare e trovare gli amici che magari conosci solo sul videogioco quando sei a giro per la città. Quindi è un mondo che si sta costantemente evolvendo. C'erano dei romanzi di fantascienza negli anni 60 che si erano inventati l'idea dei giochi di società del futuro in cui i videogiochi avvengono per le strade, la gente mima e si comporta come se partecipasse a videogiochi. Era stato ripreso anche una decina d'anni fa, se non sbaglio, in un film. Ecco, in realtà non è più tanto fantascienza, perché c'è effettivamente chi gioca per le strade, chi va nei posti. A me risulta, per esempio, che quando tu vai nei posti giochi a un gioco un po' particolare, no? No, adesso stai facendo una cosa cattiva che non so che cosa sto facendo. Cioè, io sono anche sposato, cos'è che sto facendo? Stai lasciando una traccia per giocare con sì, i tuoi amici? Sì, assolutamente. No. Allora sì, no, questo sì, nel senso che Foursquare, stiamo parlando di Gowalla. Ecco, io questo faccio. Allora, parliamo di due dei nuovi giochetti cosiddetti del social networking più di moda, più sì, di modaioli, da aperitivo, un po' da fighetti, ecco. Che cosa sono? Sono dei geolocalizzatori in termini tecnici, in termini invece più umani sono dei software che si installano sui telefonini e che indicano la tua posizione. Tu puoi segnalare a tutte le persone che hanno lo stesso programma dove sei, che cosa stai facendo, se c'è una pizzeria molto buona puoi giudicarla, insomma crei insieme agli altri utenti in una logica America 2.0, tra virgolette, una guida turistica, una mappa virtuale dove magari va a indicare cose estremamente interessanti. E ce ne sono anche altri in cui, se vai spesso in un posto, ne diventi il sindaco virtuale, diventi il comandante. Infatti io sono sindaco di la trattoria, non sto scherzando, sono sindaco della trattoria Erburino a Roma. Perché ci vai un giorno sì, un giorno no? Perché sono stato il primo ad andarci, in realtà, per cui, cioè, non è che ci sono andato un giorno sì, un giorno no, però essendo stato, diciamo, lo scopritore da un punto di vista di social network, subito l'ho cliccato un paio di volte e sono diventato... Buonissima, peraltro. Tra l'altro il nome non è esattamente questo, così non gli ho fatto neanche pubblicità. anche se la parola Burino c'è. Vabbè, andiamo avanti. E poi sono sindaco della redazione di Nuova 24. E tu capisci che questo decisamente non è lavoro, è abbondantemente tempo libero e lo definirei una forma di gioco. Magari non è lo stesso gioco che il ragazzino con i brufoli e gli occhiali spessi fa davanti alla PlayStation, però fa emergere questa dimensione assolutamente di gioco che piano piano si allarga sempre di più. Ma su nuovi mezzi, su questi, su io Go sono Wanda, no, niente. Sono un monaco tibetano, questo perché? Tipo di cose, ma perché le giudichi anche un po' dall'alto, un po' con la penna rossa, ma poi magari scoprono dove sei, dove vai. Ah, c'è i segreti. Sai come si dice in Italia, che gli italiani amano la famiglia talmente tanto che ne hanno più di una, eh? Non bisogna correre rischi, no? Nova Lab 24. Luca Tremolada, Antonio Dini a ruota libera su videogame, forme di gaming social, aspetti videoludici della vita e segreti personali. Dobbiamo però dire due parole su Nadal, cioè su questa, diciamo che forse è una delle più importanti novità del momento dal punto di vista di interfacce videoludiche. Esatto, una volta c'era un movimento artistico che diceva che il corpo dell'artista era l'opera d'arte, adesso il corpo della persona diventa il joystick, cioè con Project Nadal ci si mette di fronte all'Xbox, ci si metterà di fronte all'Xbox quando arriverà, e chissà in che modo arriverà, e muovendosi sì, lei capirà cosa stiamo facendo e per esempio ci trasformerà nel portiere che para i palloni, oppure ci trasformerà nello sciatore che si muove su e giù senza bisogno di avere in mano assolutamente niente, nessun controller, nessun pulsante da pigiare, nulla di nulla. Sì, riconosce i movimenti del corpo, per cui in una visione, insomma, se la tecnologia andrà a posto, se andrà tutto bene, perché è una telecamera intelligente che ci riprende, noi potremo entrare direttamente nel videogioco. Ma com'è? Ma l'abbiamo provata sia io che Antonio recentemente, è interessante, noi abbiamo provato solo un gioco dove si davano dei colpi a delle palle che arrivavano. E insomma fa impressione, cioè io sono rimasto abbastanza colpito, anche se, ed è questo il tema, penso che siamo di fronte a una tecnologia per giochi casuali, come dice Antonio Dini, per cui per giochi semplici, tutto sommato, non devono essere molto complicate. Dopo cena con gli amici. Uno spara tutto, non ce lo vedo andare in giro con le mani a forma di pistola a fare pum pum, oppure guidare una macchina muovendo le mani. Ma come sai qual è il problema di questa roba qui? Io ho due pensieri su questo. Il problema che è già emerso con la Wii è che hanno inventato queste interfacce assolutamente nuove, questo modo di interagire totalmente nuovo, però poi non sono stati creativi nell'inventarsi i giochi. Non sono riusciti a cogliere l'innovazione tecnica e trasformarla in qualcosa di nuovo anche come uso, se non con quelli di base. E il mio pensiero invece per Nadal è un altro, è le aspettative sono altissime. Microsoft ha presentato un prodotto che fa vedere dei video disponibili su internet, metteremo anche noi il link, che sono straordinari, ma poi bisogna anche vederli in concreto. Per ora si è visto poco e i mesi prima del lancio, che dovrebbe essere più o meno intorno a Natale secondo le aspettative, nome Project Natale, cioè... non sono poi così tanti. Dunque, il tempo questi è poco. Qua di Microsoft, come lo chiamiamo? Project Natale. Hanno avuto un'idea innovativa. Marche, soldi di marche. No, a parte questo aspetto qui, l'altro filone che dobbiamo assolutamente toccare per essere soddisfatti di noi stessi è il 3D. E qui c'è una retorica forte, si sta dicendo, si è stato scritto che il gioco del futuro sarà in tre dimensioni, esattamente come la televisione del futuro sarà in tre dimensioni, esattamente come il cinema del futuro sarà, anzi, è in tre dimensioni. È lì la differenza. Allora, il cinema è già in 3D e il cinema in 3D va bene perché al cinema si va a vedere un film in 3D. La televisione è un problema enorme, perché adesso con i mondiali ci saranno alcune partite in 3D, se si entra in determinati circuiti, eccetera, eccetera, però non si riesce a coprire un palinsesto di 24 ore con programmazione in 3D. Ecco allora che arrivano i videogiochi. I videogiochi è facile riconvertirli al 3D e probabilmente un singolo videogioco si può usare anche per settimane, quindi il proprietario di una console di videogiochi ne ha 5, 6, 10 in media, non ne ha 2000. Quindi il videogioco è visto come la frontiera. Il problema è che i videogiochi in 3D che ho visto io non mi piacciono per niente, come si dice. Magari sono fatti, perché diciamo che la prima difficoltà per me è quella di, parliamo di console casalinghe, di stare in casa con l'occhiale. E quello già è una noia. E già quella è un po' una noia. Poi, insomma, entrare in un mondo immersivo, uno deve stare attento ai riflessi, all'adrenalina, a pigiare il pulsante al momento giusto. Cioè, non deve essere tantissimo distratto. Che invece danno un po' la nausea, perché si muovono talmente velocemente che dopo un po' devo smettere. Cosa che invece con i videogiochi bidimensionali, quelli classici, spara tutto, guida veloce in macchina sul grande schermo di casa, riesco a starci per delle ore come un invasato. Allora faccio l'intervistatore di Dini, perché manca un minuto e abbiamo detto che i videogiochi sono attaccapanni della memoria, nel senso ci abbiamo appeso ricordi, soprattutto noi che abbiamo una quarantina. Ti piace? Qual è il tuo attaccapanni della memoria, visto che anche tu sei passato dagli 8 bit ai 16 bit alle console? Un vecchissimo gioco che purtroppo non c'è più, Sonic Knights, che era dedicato al personaggio Sonic della Sega, di questa azienda giapponese che adesso fa solo software, e che ho visto quando avevo, credo, 16 anni, qualcosa del genere, che mi Sonic? Ha assolutamente... Knights è uno stranissimo gioco finto tridimensionale, molto poetico. Per me è Manic Miner dello Spectrum, dove si saltava, ho perso anni della mia gioventù. Lo chiediamo chiaramente agli ascoltatori, se ci scrivete qual è il vostro attaccapanni videoludico, o al Twitter di Novalab24 o sulla pagina di Facebook di Novalab24 o sull'indirizzo di posta elettronica. Per oggi è tutto, appuntamento alle 16.30, grazie Antonio Dini. Grazie a voi. Nova Lab 24. Nova Lab 24.